Geometra Piretta, aqui al sesto piano. Se qualcuno sta vicino alla zona dove c'è l'ascensore Covid, non abbiamo bisogno di bloccare l'altro ascensore. Quindi sto chiedendo di sbloccarlo, perché se no non abbiamo altri mezzi di comunicazione fra i piani. Ok, perfetto, ci arrangiamo noi al sesto piano. Grazie mille. Niente. Il paziente sta salendo nell'ascensore. Fabio, sono Gianni, mi senti? Sì, dimmi Gianni. Ascolta, mandi qualcuno con un paio di guanti in lattice. Senza chiave. Stiamo arrivando. Grazie Fabio. Questa... Morirete tutti. Oscari. Oscar. Fabio, qui centro emergenze. C'è un altro trasporto, mi ha detto tra un quarto d'ora è medicina d'urgenza. Voi in che reparto siete adesso? Chi ha chiamato? Perché noi siamo già in medicina d'urgenza. Mi hanno chiamato dalla medicina d'urgenza, allora dico che siete già lì. Ok? Fabio, qui Walter, a posto, gli ho detto che siete già lì. Ok. Puoi ritornare indietro, per favore, Giorgio? Cos'è successo? Ho dei moduli che vanno consegnati nelle postazioni. Arrivi! Mi dispiace per la strada che hai fatto. Ti chiedo scusa. Il corriere non è di tutto, è di tutto. Attenda, non ho visto. Non ho visto se deve scambiare. Guarda, che è entrata adesso, lascia uscire. Operatore almeno due, il paziente sta entrando adesso in ascensore. Appena salito dall'ambulanza potete rientrare in via. Ok. Perfetto. Santissima Annunziata per cliniche San Pietro. Avanti. Il paziente sta partendo alla Santissima Annunziata. Va bene, grazie fa. A te. Operatore almeno due. OK. Eia, dimmi. Va bene. È arrivata adesso. Ok, va bene. Cosa? Un'ambulanza è andata via adesso. Dovrebbero mancare ancora 4 pazienti. No, 3. Quando va via questa ambulanza ce n'è. Gabriele, perché sta passando qua? È arrivata un'altra ambulanza adesso. Questa sta scaricando adesso qua. Ma perché c'hanno il paziente? Eia, stanno scaricando. Stanno andando in pneumo. No, questa è vuota. Stanno scaricando solo la barella e le bombole. Ma sì. Non il cellulare non sta funzionando, quindi non riesco a chiamare pneumo. Eia, ok. Siri. Sì, mi mangi. A chiamarsi la sì, dimmi Mari. Aspetta. Sì, ti ha detto qualcosa? No, mi ha detto che sta chiamando adesso. Mica hanno chiamato adesso dalla prima che vi stanno provando a chiamare. Molto sporco. Sì, di stare dentro la pistola e glielo chiamo io. Anche perché dice che non rispondo in rianimazione. E se la fai a dirgli di rimanere dentro la scienza, lo glielo chiamo io da meno uno. Ehi, quando lo sento uscire ci provo. Okay. Guarda che adesso stanno scendendo quelli del Santissima di prima. Su questo canale. No, sono usciti e sono rientrati dentro. Ne stanno intubando uno, adesso nella prima, fra 5 minuti escono e va portato in rianimazione. Ne stanno intubando uno adesso nella pneumo e va portato in rianimazione, esce fra 5 minuti. Ma si smette, mi ha chiamato, dice che ne stanno intubando uno per la rianimazione, è quello che ha appena visto, si stava la cinque. Ma sì. Io non posso fare. faccio, salgo io al terzo piano. Trovata Massi. Ok, va bene. Trovata la scheda Massi, stanno salendo. Ok, va bene. Quindi adesso Federico, come scende questo della... che deve andare in animazione, deve andare al Clemente. In teoria bisogna già andare al Clemente. Ma sta scendendo? Su, perché quelli della rianimazione sono arrivati adesso. Ok, dai, come stanno scendendo? Tu inizi ad andare, io rimango qua, con lui e cose che sono andare al Clemente. Ehi, va bene, dai. Funziona. Allora, Clemente ce ne fa una a meno uno, una all'uscita, con la macchina, vabbè. E una al piano terra. E l'altra al primo piano, dai. In quattro piano. Boh, va a andare, poi adesso prendi la macchina e vai con la macchina davanti alla... Ehi, va bene. Federico, ne metti uno almeno uno. Dove c'è la... Dici che glielo chiamo io l'ascensore, io non farlo scendere. Ma si chiama l'ascensore appena si... Ok, va bene. Chiama l'ascensore. Adesso questi sono scesi di nuovo sporco. Alle scale. Scale, ma ti siamo aperti. Però mette una cazzo di scala di merda. È avvicinato. Ah, due metri noi, cazzo, vabbè. Adesso dobbiamo aspettare un'altra ambulanza. Quanto ho capito deve arrivare un'altra, sì. Fare questo signore in rianimazione. Quello che scende adesso dovrebbe andare in rianimazione, sì. Ok, come scende questo qua? E come sale l'ascensore inizia a uscire da Giovanni, così poi Gabriele ci raggiunge e andiamo a Clemente. Un'altra ambulanza è arrivata adesso. Un'altra ambulanza è arrivata adesso e una sta andando via. Giovanni, ma ti stai mettendo a contare l'ambulanza? Altro da fare non ne ho. Per me ti conviene giocarti i numeri delle targa la spanella lo. Ma sì, sta scendendo una ragazza che deve andare agli spogliatoi. Lo sa che è sporco, però deve andare per forza lì, quindi sta scendendo. Ok, va bene. Prova. Che cazzo? Sono arrivati, fa. Vuole l'ortopedia? Sì. Sono arrivati. Stanno salendo. Sono arrivati. Stanno salendo. Rispondo appena arriverò qua, ok. Un'altra ambulanza. Giochiamo anche questo target. Sono ancora almeno due. Con tutto. Sì, l'abbiamo visto adesso. Sono arrivati qua al centro, stanno entrando in reparto. Ok. Niente, e prendete uno quelli da mettere qua. Ehi, va bene. Quindi al Clemente ce ne sono due e non hanno senso, eh. Vado e torno. Ma dove ci sono i carri delle pulizie? Non ce n'è di paletti, no? Ehi, bisognerebbe controllare, non me lo ricordo adesso. Va bene, va, va. Sì, una bella idea, Pietro, te la mando? Ascolta, ma sì, io mi avvicino direttamente fuori, così poi me ne vado al Clemente. Vabbè. Va. Tanto qua c'è la catenella, sperando che non entrino. Va bene. Quelli che devono prendere il ragazzo da rianimazione sono qua. Poi non escono da qua, vi avviso. Ma ancora non sono... Non è quelli poco qua, un'altra squadra. Si sicuranovi. Stanno scendendo dal sesto piano, ritirate la chiave quando vanno via e la riportate al portieratto. Che sia sonificata, mi raccomando, controllateli. Ok. Arriva. No, figliola. Avanti. Già. Ma solo perché io sei da porta. Eh? Non fa niente, non fa passare nessuno. Ehi, ehi, sono passate solo due signore che dovevano cambiarsi urgentemente. Basta. E c'è Federico, lo mando via. Ehi, affattacelo, meglio va. Adesso sì, adesso vedo che scala, adesso va bene. Mi sono tanti aguzzi infatti. Beh, l'antenna è in basso, devi contare quello. L'importante è che esca la capita, sta uscendo comunque. E che ti dicevo, prima neanche dicevo nulla io. Voglio spegnere il cavo, che c'avevo il cavo aperto, che era verde di colore, capito? In più il polo positivo era nero come il carbone, allora ho preso e ho tagliato quasi un metro di cavo e ho visto che la verticale funziona, capito? L'ho provato anche in alta frequenza e funziona benissimo. Guarda che il polo negativo era nel bianco, nel nero c'era il positivo. E il cavo vecchio, capito? Si era aperto e era entrata acqua all'interno, quindi la calza non conduceva più, hai capito? E quindi non si può ricevere e trasmettere, è una puttana la cosa, infatti l'avevo scesa giù e l'ho messa in terrazzino e adesso già funziona, ho visto. No, ma quello è tavolo da tagliare, quello è cavo vecchio, taglia. E tu sei quasi 9 in questo smitter, figurati, di questo apparato qua. Sì, il 29 e il 30. Gruppo Silicone, c'è il rischio che ti si segue il coglione, capito? Facciamo adesso. Stanno salendo. E tu sei 9 qua. 9 è perfetto, sì. Cappa, ma quando gioca a casa, va bene, però non c'è nulla. Sì, vabbè, ma già arrivi da casa comunque, non è che non arrivi, no? E che apparecchio è, Antonio? Un apparato cinese, è più piccolo del baracchino, figurati tu. Uno di quelli per la macchina cinese, c'ha 100 canali di memoria e... capito? Di potenza non lo so quanto sia, penso che sia 15-20 watt, non penso che sia di più. Cazzo. Me l'ha regalato mia sorella Giovanna, me l'ha regalato. Mi ha regalato questo e due portatili marini. Quei cinesi sono, ma. Era dei che si è cognato, capito? Me l'ha regalati ieri, me l'ha regalati. Erano in garage lampati. Mi sono trovato questo, Antonio il regalo mi ha detto, va bene, gli ho detto. Già l'uso io, non è quello il problema. Ah, che si già. Se però si prende lo stesso, che cazzo fa? Si tratta la radio, blu. Allora, gli ha impostato tutto, c'è tutto. Ma di lui se gli ha fatto. Oh, se non te ne sei accorto te lo faccio notare, basta. Ne ha memorizzato tutto lui. Le frequenze. Vai, Ricky, in culo. Fate la cosa, è tutto la cosa così forte, capito? Io ascolto anche la polizia e... Torre 2. Ma sì, mi senti? Mi sta venendo adesso ultimamente, per lui te lo buco il culo. Ehi, già lo so. Già esce bene, l'ho provato. Tutti così, da questo tizio. Ho quanto la verticale... Funzionava tutti i punti, figurati, che ci ha messo. Sì, Bowfend. No, non è Bowfend, è Kanken, una cosa del genere che ha scritto. No, non è Bowfend, che marca è? Aspetta che lo giro. Si chiama Liepsen. E infatti, ma già esco, l'ho visto, sono dei giocattoli, ma già esco. Non ho capito. No, non ho accesso nessun altro. Ho acceso e io stavo ascoltando alcune frequenze che mi ha messo e poi io sono aiutato e sono andato con il TPMR e provo un pochettino. l'altro. Quale? Quello nero che mi ha messo in fotografia? Sì, quello lo so. Sì, quello devi importarlo in pratica. Vabbè, meglio così, se te lo fa si apposta, almeno lo utilizzi. Quello te lo puoi lasciare a casa. E quello che c'hai adesso te lo lasci in macchina. Sì, sarà grande quanto questo allora. Già va bene, è perfettamente leggero che... Questo va bene, va messo incassato nel cassettino, okay. Sotto lo porti a passeggio, ok? No, non è un portatile questo, è da macchina, hai capito? Da inserire in macchina. No, sarà lungo, come ti posso dire, 20 cm di lunghezza e sulla larghezza sarà più di 30. Adesso ti faccio la foto e te la mando. Te l'ho mandata. Ferdinando, non si entra più qua, Si entra davanti al vecchio pronto soccorso. Ti piace? Un apparecchio della macchina, Figurati. C'è un'ambulanza dentro, qua stiamo andando le percorse. Forse quello è Covid. Sì, ce l'ha lei. Costano, mi pare, una cinquantina di euro, forse, una cosa del genere. No, sto parlando al secco. Capito? Sono una parola di cinesi che vendono così, capito? VEU. Però se lo comparecchio se lo riprenditelo perché già funziona bene, è un bijou. E chi è? No, se la c'è della portante ho scacciato due volte io. Cavolo, non so chi c'è, casa è comodo da casa per questo portatile. Se devi parlare con le frequenze è comodo da casa. È comodo, sì. Era sempre detto arrivando. Prova un po'. 1, 2, 3, prova. Poi glielo vedi che è arrivato. No, non credo che sia attenuato, no. Sono quello di vettiva attaccata, sono. Buttata a Monte Oro, quindi. Geniale, Beh, se stai passando qua sotto. Sì. Vabbè, adesso sarò qua già a fondo scala. Bombolino, mi senti? In pratica ti dicevo di vetro, io lo sai. Perché appena è quella con quella del... Una direttiva così. Quindi dietro dicevo un poco. Più che altro va tutto in avanti, capito? Adesso ci sei, l'ultimo lente mi hai incollato. Ho fatto capo uno scala. Adesso sì. Non ti preoccupare, non succede nulla anche se sono via. Se ne ho stato tutti dove abbi. Non è quello il problema. Avanti quasi. Sotto casa sotto. Adesso sì, fanno scala del tutto. A voglia. Se ne è stato ti collo anche a te. Già non credo già. Se avessi più smitter sarebbe 60 qua. Per un altro apparecchio. Quello sì. E sto andando alla via che c'è qua a fianco, mi ha fatto una bombola. Ah, in via Moranti. No, in via Padula. Via? Via Padula. Guarda che c'è vicino alla fermata del treno qua. Ah, ci sono quelle cose nuove. Ah, senti Via Padula. Vuoi sapere queste opere, queste cose nuove che hanno messo? Senti. Non ricordo di come nome, figurati, che hanno dei nomi strani. Maduro, che è strano, che guarda tutto suo, eh? Quanto mi sei? E infatti, un altro di nome che gli hanno in busto, sempre con una cosa da metterci. Non è che sono vie nuove, quindi. In pratica entri da dove sei entrato e sei via Milano, dove sei uscire. E io d'accordo, ok. Andiamo bene, andiamo. Siete. Ti ha consigliato, gli hai fatto in fretta. Come si è salito con l'ascensore? Ah, piano terra, l'hai consegnata. Ma dimmi, se usano il pompolone o la pompa normale? Tutti? Ah, pensavo che usavo il pompolone, ho detto. Stanno perché palazzine nuove. Potevano agganciare il pompolone. Evidentemente hanno fatto per costruire più palazzi per volta. C'è stato così. Non avevo messo il pompolone in strada. Figurati, scusa lì, dai. Se vai qui ci vai pure rovinare, roba l'apparecchiatura e già via fuori. Quello sì. Ma c'è una zona alta. Il problema è che si è tappato per la zona di Usi, l'ho capito. Tutto lì. Alto già è alto, da qui vedi tutto Sassari. Però dietro non vedi nulla perché c'è la collinetta di Via Carlo Felice, capito, che è più alta di, sarà almeno minimo 300-400 metri più alta. Non so quanto è. Vabbè, dai, ci porta perché c'è un bel in alto. Non sei come che un palazzo, però ci porti come te. Guarda, era meglio lì per il sito, la verità, perché anche se non era tanto alto, avevi tutto libero, si vedeva l'Imbara, si vedeva tutti i paesi di vicini, capito? E avevi tutto aperto, avevo, quindi parlavo bene, addirittura parlavo con Villacito, in provincia di Cagliari, figurati tu, arrivavo a segnare in 5, mentre qua sono tutto busto, oggi lo c'avevo di fronte, perché ce l'avevo di fronte, qua non lo vedo per niente. Dove stai parlando? In Via Ristretto ci sei? Sì, in Via tutta la Sardegna facevo, addirittura ascoltavano a due ore, capito? Arrivavo 9:20 al passo di cose due, in provincia di Nuoro. Me lo ricordo già che un po' così, però cazzo per come arrivava, perché era un punto aperto. Esatto, sì, era un punto aperto. Ne avevo avuto gli apparati che ho adesso, a quel tempo lì, in TMR, cioè minimo, mi avessi ascoltato ben lontano, figurati. Già me lo ricordo dove era l'antenna. Ricordo che era in quel palazzo vicino al bar lì. Esatto, sì. Lì era tutto aperto, figurati. Parlavo con la spagnola tutti i giorni io, di mattina e sera, sia d'inverno che d'estate, senza troppa canzone. Era un punto aperto per le canali. Dammi la ma la ricordo. Ma ci sei poco lì. No, la mantova non l'ho avuta io. Ho avuto la chiave 17L, ho avuto la come si chiama, la Super 20, poi la Firenze 2, che avevo installato una direttiva 320 una volta. Che mi aveva regalato Mario da Bocciardi. Tanto già era poco lunga, usciva fuori dal palazzo 4 metri da una parte e 4 metri dall'altra. Era spaventosa, era. Poi quando sono andato via da lì, mi ha detto mia madre, dice, se la porti qua nella casa nuova, dice, ti butto fuori di casa, ma ha detto, no, ho preso l'avevo regalata a Giuseppe, quello che abita a Coso, a Fanculo, dove ti giro, a Campanella. No, no, la sorpellebbe io non l'ho avuta. Tu? Proprio per niente. La manto vado, non si è saltato, non mi sa se quando sono arrivato qui a pittare. Ho fatto l'antenna, nuova, ho messo la manto, prima la 1, poi ho portato la 5, poi la 2. E sono messo con la 2. No, mi ci va bene anche la 5 per questo. C'è bisogno di installare la 1. Ho avuto dei problemi, lo sai che la lira si oscillano, dove c'è la parte lavata e ne careva la ventoveglia interna, quindi sono andato senza la lira dopo un anno. Ho preso e ho messo la turbo era picchio, perché c'ha l'alluminio con la parte metallo, quindi si forma il canto dell'alluminio, capito? Si forma quella patina bianca e i radiali si mantengono. Allora, ho fatto la bonifica, gli ho messo la vasellina e il grasso, almeno non si crea quel problema. Sì, vabbè, già va bene anche la vasellina, non c'è bisogno di... Una volta usavano quel grasso per i freni e le bicicletta. Questa macchina sta salendo, entrata e esce subito. Sì. Ti ricordi quelle classiche che si metteva nel vino del freno delle biciclette? Quello uno che avevo in un'antenna io. Non sai quanto veniva male a toglierlo, anche lavando l'antenna. Stava anche 6 anni con tutto quel grasso sopra. Nella presenza 2 l'ho avuto io. Poi l'antenna si era spezzata e si era giovappata. E quella che era bella la presenza 2, come antenna. Era veramente bella. Funzionava in 24 TV. Andava benissimo, faceva tutte e due le frequenze, che era un siluro era. Loro hanno fatto poche e chi l'ha avuta penso che se l'abbia tenuto, non lo so. Comunque c'è un sacco di gente che l'ha già cercato per l'antenna. Se riescono a trovarla anche 250 euro puoi vendere tranquillo. Se la comprano subito. Quattro radiali che aveva, e lo stilo era grosso come un coso, poi c'aveva la... in volo dove c'era la carica, la matta, quella grossa, c'era una di volo con la ricolore celeste, e per regolare il stazionale dovevi regolare tramite una rotella che è rossa che c'era sotto la base. E io ero accorto. Ci sono i buffet, 38% di sconto, da AliExpress costa 3,78 euro, 3,78 euro. E io, non sto scherzando, adesso ti mando come si chiama, aspetta se lo mando. Aspetta un secondo. Sì, te l'ho mandato adesso. Sarà una catapecchia, sarà. No, sono venuti, sono. Sì, guardatevi da una foto adesso. Te l'ho mandato. Dimmi, ma. Sì, sono precisi, sono. Hai visto il costo, quant'è? Non so se c'hai lo stesso Bonfeng, va bene, sì. Sì, ti ascolto, volevo mandare anche a un po' d'ottobre i punti di sento lo stesso. Anche a Palai, dove andare? Nintendo Novartessi. Ah, eh? A voi, allora. Sì, già lo so dove è Giappone. Chi non è più distretta rimane. A voglia a forza di uscire tutti i giorni di vicino a sistemare le antenne, tutte quelle vie già me le ricordo, poi vabbè, la polizia sta facendo queste cose per prendere l'abito da mio fratello, perché c'è quel locale che apre la notte, rimane anche fino a mezzanotte aperto quel locale lì, capito? C'è una specie di alimentari, ma non erano alimentari, là, una salumeria più che altro. Anche le signorine. Una volta ne ho pensato a vedere dalle signorine, anche se le signorine che l'hanno chiamato a me, perché c'erano tutti i tecnici, no? Andavano lì per andare, sono appianto io, se non ti preoccupare, non ti prendo niente, basta che mi dai quello di sotto. Termina, siamo un... delle auto, una volta, tanto si chiama la ragazza nuova, tutti sotto casa si guarda. Dimmi. Ho detto che siamo vivi, siamo qui in attesa di Barella. Ah, ok, va bene. Ma il marito è pure la casa di casa, il chiamato alla centrale? Addirittura c'era gente che regalava alimentatori, microfoni. Se ti regalo il microfono per il cazzo, a me esci bene. Sta sempre arrivando? Mi ha avuto. Sì, segnale 5 è arrivato, già arrivi sempre. Già. Mi sono già nei bomba pure ho visto. Ah, già esce, non ti preoccupare, auguri. E anche per i polsi. Non penso che con quell'altro nuovo Nora? No, se ti prendi uno come non da letto lo metti lì a voglia che esce bene e anche per i pochi ce l'è tutto sta bene, i soldi gastare un po' di soldi, mettere da parte, fai finta che ti stai bevendo per dire una birra. Potete andare a parte, mettete 3 euro conservati dentro al salvadanaio, una volta che arrivi al prezzo, a quello che vuoi prendere, fai altro che ammassare il porcellino e togliere i soldi e andare a comprarti quello che ti siamo. Cazzo dai, adesso sono arrivato in traviato perché lì c'è un po' come... Ok dai, sono arrivato. Adesso non ti sento più, ti sei abbasciato di un bel. Ok dai, va via. Adesso ti sei sollevato appena. Andare. Adesso ti ho fatto una roba lì che sono i caseggiati anche di quelle billette che sono i piccini. Andare dai. Dai, ci sentiamo. Sì, d'accordo, dopo. Oh Federico, mi senti? Federico, mi senti? Fat? Sto per salire. Ah, ecco. E ora sono all'interno e stanno cliccando per salire. Qual è la capitale? Sì, va bene, ok. A più tardi, ciao. Buon lavoro. D'accordo, ok. Allora, quando ci sentiamo da casa, va. Venite a casa. Ok, ciao, a più tardi. Sono scesi. Che famo? Giovanni, mi senti? Sono andati via. Perché la siete andati via? Non si sente. Perfetto, sto facendo l'emogastro stamattina. Sì, notizie. No. Sto salendo un'altra squadra. Ma non era solo uno. Ferdinand, ce ne sono? 18-10. Ok, con calma allora ce ne torniamo. La centrale non mi risponde, neanche poco fa. Ma ti stai mettendo problemi? Tu adesso state risultando la chiamata, aspetta che ritorniamo con calma e ci sanificiamo. Anzi, chiama, inizia a chiamare Francesco per la sanificazione, dici che ci mettiamo fra mezz'ora, siamo lì. Non ho capito, no, devo chiamare Francesco. Sì, per la sanificazione. Sì, così perdiamo un po' di tempo. Io mi senti. Tocca la sua, non lo so. là, mi senti? No, qualcosa è migliorato. Dove sei? Qua, aspetta un attimo, qua a casa della mamma, là. Con quale antenna? Con quella di fuori. No, è geniale, Dorra. C'è segnale? No. Boh, non ho toccato niente. No, non hai segnale, non dipende da me, non lo so. Qua stai arrivando bene. No, anche qua stai arrivando bene, ma segnale non ne ha. Qua sta arrivando più forte dell'altro giorno. Di segnale. Ma lui? Ma lui Natalio, io. Luca, stai arrivando bene qua. Qua non ha segnale. Apre bene lo squelch ma non ha segnale, non lo so. Guarda adesso, Ocla, ha detto qualcosa? No. Ah? Ocla? No. Poi ho rifatto il PL, la guarantena non serve a niente. Ma se prima funzionava? No, ho rifatto il PL perché l'ha rotto. L'ho rifatto a nuovo, bene, perché l'ho fatto bene. E allora è l'antenna che non si fi. Se mi si che mi arriva, ti arrivavo 9, adesso ti arrivo niente. E vuol dire l'antenna, no? Eia. Vabbè, adesso su 10. Natalino, ci sei? Eia, sono qui. Tu mi ascolti bene? Arrivo a fondo scala da te. Arrivi bene. Può darsi che ci sia qualche ostacolo verso Claudio. Ma io credo che arrivavo a Santiago 9. Adesso non gli arrivo di segnale. Senti, mente c'è qualcosa nell'antenna. Noi siamo troppo vicini lui. Vabbè, ma l'antenna sta andando adesso. Non lo so. Ma non so che dici. A me il segnale appare. Ma perché siamo vicini noi? Lui è lontano, Claudio, capito? Se non funziona bene l'antenna, dice che gli sblocchi lo squelch, però segnale non ce n'è. Lo so, già me l'ha detto. Aspetta un attimo, provo un'altra cosa. Marco, mi senti? Ah, X50. A te ti arrivo di segnale, almeno. Nicola GSA San Pietro, se c'è qualcuno in ascolto, mi rispondete, per favore? Nicola GSA San Pietro, se c'è qualcuno in ascolto mi rispondete per favore. Ma che segnale ho, Marco? Nicola GSA San Pietro. Guarda un po', Marco, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Prova radio. Qui il CGM, dimmi Nicola. Ciao, ascolta, è partito l'allarme agli infettivi. Antincendio, può andare qualcuno a resettarlo, per favore? Scusate, il canale lì è occupato da noi CB, Non potete... Ma non si è arrivato. 7, scusate. GSA, vi spostate su un altro canale, facciamo il 6, per favore. Oh, no. Boh, non lo so, un tipo, Marco. Io sono dell'azienda ospedaliera universitaria, noi usiamo le radio dentro, raga, non è un gioco, per noi. Allora è un problema da Claudio. Cioè non è che c'è un problema a Claudio, è un problema magari la posizione. Perché l'antenna sta andando. Ehi, Marco, mi stavo limando l'altro bocchettone dell'antenna, Tanto se ci sei lì, in ascolto, se no già chiamo a Claudio magari, dai, faccio un'altra prova. Ciao! Claudio, guarda adesso, che ha detto qualcosa? Claudio. Sei aumentato lui. Ho aumentato Gio Mari. Che prima ti sentivo a scarica, adesso è perfetta. Claudio. Gio Mari, comunque, aspetta. Mi ascolti bene adesso? Adesso ti sei abbassato. Non sto toccando niente Gio Mari, non sto toccando niente. Beh, va bene lui, io ti sento bene. Ma cosa l'ha pigliata questa antenna, va? Ma tu andà zia, vabbè, ma non anda, No, io ti sento bene, dai. A me va bene l'antenna, adesso non so. Chiama Claudio. Claudio, se non c'è. Natalino. Niente, Danilo, tu sì. Vabbè, comunque io ti ricevo bene. Allora, Giulio, a Gio Maria lo ricevo bene. Prima invece no, prima. Non lo so. Allora la posizione da Claudio. Ehi, ciao. L'hai copiato a Marco? No, non sento nessuno, sai, perfetto, basta. Ho capito. Ma di segnale ne ho segnale, Gio Maria, almeno da te. Sì, ne hai tre segnali. Tre di segnale. Via Graziano. Chi è? Graziano non lo sento. Gio Mari, chi è? Luca è. E come mai non lo sento Poi io l'ho scelto bene. Ma Luca del Monte? Sì, Luca Montanaro. No, non lo sento. Lu, dove sei? A casa di tua madre? Adesso non risponde. Mi sa che non l'ho sentito da casa sua. Ma la 27 accesa ce l'hai, grazie. No, non è attaccato, Luca. Perché? No, volevo un controllo, va. Ma oggi non ha già attaccato, sono quasi risetti, da poi devo andare a fare l'insulina a ghita. Sì, non fate niente, va. Luca, il Parigi. E io non lo prendo per niente, neanche con quella esterna, l'altra volta abbiamo provato. Non lo sento per nulla. È troppo nascosto dopo di lui. Dai palazzi di fronte. Strano, è strano. Non lo sai, dice, chi ci sono questi, basta che vi sia un coso davanti e non passa. Guarda un po' adesso che ho rimesso l'altro bocchettone, Giovanni. Sì, 7x3, il segnale alla radio è buonissima. È strano, la ribotta di segnale, cazzo. Ma è un po' strano. No, vabbè, non dico per te, Guarda l'antenna che non sta andando bene. Se non ti sente Graziano che è vicino, ma giusto, no? No, a casa della mamma sono. È strano che non ti senta Graziano. Un passaggio mi sembra l'ho sentito piccolo. Luca! Eia, chi è? Qui sta arrivando la scalata, Ottavo, Allora vedi, è la posizione. Ma come arrivo di segnale? Ciao Marino, come arrivo? 2, 3, 4, 5, quanto arrivo? Arrivi tutto spalato, dunque non ti dice a segnare, tutto spalato, se arrivo. È come se a fianco a me, figurati. Ma scusa, la fa una cortesia, io ti faccio un passaggio, me lo fai un video, me lo mandi su WhatsApp. Ti posso dare il segnale, ti posso dare la modulazione, capito? Volentieri. Non è uno smitter qua, capito? Comunque, è come sta arrivando, che sia a fianco a me o Luca. Ah, vabbè, ma anche a Claudio arrivo bene, vedi il radio. Non c'ho segnale, Luca, mi senti? Luca, Graziano, non lo senti? No, Graziano non arriva qua. Qui arriva, sono sparato lo stesso, strano. Questa è una frequenza un po' strana, Luca, è un po' strana, figurati. Io l'ho copiata a scarica, vado a sentire. E a me mi senti, Graziano? Sì, io ti sento, sono nella veranda. Comunque buonasera, ciao Graziano, arrivi, anche tu arrivi sparato qua. Luca, avanti. Pino, mi ascolti a me? Tu sei piccolo piccolo in mezzo a quel reme, non mi dici che sei natalino, no? Chi vuoi che sia? Ciao Natalino, già ti ascolto, là. Sei in mezzo, c'è un po' di qualche disturbo, c'è un po' di quel reme, comunque ti ho conosciuto lo stesso, dai Natalino. Oh, signor Marino, buonasera. Ascolti. Vabbè, dai, io mi sto preparando ad andare a cena, dai, vi saluto tutti. Alle prossime. Ok, ciao Antonio, alle prossime, ciao, stavo tutto in casa. Ok, grazie, riprendi, ma quelli che ti ascolto e sto finendo di fare una questione, dai. Scusate, interruzione, avanti, grazie. Eia, ok, ciao Tore, mi senti? Quello che ti sento. Se non ti sento io, non ti ascolta nessuno. Io un po', Tore, mi senti a me? A chi? A Luca, non lo sento. Tore, mi senti? Sì che ti sento. Certo, se non ti intendevo, magari che ti intendi. Vabbè, sto facendo un po' di prove, dai, io sono qua su al monte. Ehi, ti ascolto, ti ascolto. Ok, Graziano, mi senti? Luca, ti sento. Sì, Graziano, non arrivavo a portartene, lo sento basso basso. Graziano, ha detto se lo ascolti. Ciao Tore, mi senti a me? Sì che ti sento, e certo, se non ti intendi io, magari che non ti intendi. Aspetta, a tu ti senti, ma cosa vai? Un'antenna di cosa vai? Tipo vai? No, l'ho girata verso di te, la direttiva c'è. Buon gustaio, brava lei, così. Buonasera a te, entro più tardi, riprende continuo a te che sto finendo di fare una cosa e dopo. Oh, Mari, ho messo il braccio fuori mi per fare la direttiva. Già ho messo l'accordo, sì. Io ho messo la cosa, ho messo. Ti sono una poi bonifura. Anche se no te ne attagliani. Andemmo, andemmo. Riprendi, grazie. Ehi, chi sa vanno si congeleggia con un lintore che apparelli, così impara. Mica c'è Gianni Maria pure. Oh Gian Maria, buonasera. Forse l'avete lasciato troppo in stand-by, l'avete lasciato. Luca! C'ha giusto lo zumbino, se! Non lo so. Possiamo farli più ai nodi. Andate bene, vuol dire che c'è un bando stazione. Vabbè. No, io l'ho sentito barcare che dalla veranda. Qua adesso ho sentito un piccolo passaggio e buh. Attore! Marino! Marino sta facendo cosa, attore? Pasco, grazie, ma non è a banchiso, non è entrato, no? No, l'ho sentito io acceso adesso, pochi momenti fa. Sì, a meno che non ce l'ha spento. Evidentemente ce l'ha spento. O era 27, buh. Sicuramente nella 27. Allora, sì, a Gian Maria. Sì, buonasera. Buonasera anche a lì. Ma chi c'è, non c'è, no? Cos'è Gian Maria? Gian Maria. Cos'è? Che volevi? Che? Io sono. E allora tu, cosa ti racconti? Che cosa vuoi che ti racconti? Io sono con il sito a pigliare la signora e sono con Durrato. Basta, senti. Come che altro hai fatto la passeggiata? La sera sì. Passeggiata grande, poi sono rientrato, sono tornato a uscire e sono rientrando. Ehi, va bene, grazie, grazie. Ehi, era il telefono. Telefoneggia, telefoneggia. Vabbè. Io stavo facendo la prossima, volevo un controllo in 27, però ci sono loro e... da quando se ne vanno passiamo là un attimino sto. Sì. Ciao così. Ok. Mi senti sempre bene, no? A voglia, se ti sento. Certo. E ora assustato io. A chi non mi senti va bene Luca? No, a te. Tu già esci bene, a Luca che sta facendo le prove. Infatti, al momento sentivo bene, al momento sentivo male. Bisogna trovare la posizione giusta. Infatti, bisogna trovare la posizione giusta, bisogna trovare, cioè con il portatilino. Per quello. Vabbè, anche le prove bisogna farle. Almeno ci rendiamo conto come siamo, come lo siamo, o no? Sì. Ah, io gli ho attaccato con il cavetto al portatile e no, intendo a tutti. Stavo dicendo, la 27 accendercela. Sì, ma ci sono sempre loro, ci sono il 27. Ah, infatti, vabbè, aspettiamo, va. Ti aspetto a vedere, io sto guardando a vedere se sento Bacchisio lì. Se stanno parlando loro, magari Bacchisio non entra, beh! Arruti due, grazie a stasera. No, oggi sono tutto stato in casa, oggi, niente, oggi ho cucinato pasta e fagioli, carote, fionda e ditalini da minestra. A secondo sto facendo, adesso sto facendo gli ossibucchi col sugo hanno la male, non posso, rosmarino, c'è un bel profumo di pizzaiola. Va tu bene, così ti dai un po' di durizzeri. E allora, oggi dobbiamo fare un brodo, invece ha detto, ma la giubbattura anche da abbassata. Oggi posso pasta e fagioli. E a secondo, non sono usi buchi, cioè io li chiamo così. Sono dei cosi rotondi, tutto carne, capito? Non so come si chiama. Gli ossobuchi. Io li chiamo ossobuchi, ma osso non ve ne è. sono rotondi, come una girella, no? E vanno cucinati con il pomodoro alla pizzaiola, capito? Sì, t'ho compreso, c'è un pezzo di carne fatta rotonda e vanno fatti così quelli. Non so se è un muscolo che lo tagli a fette, no, rotondo, di spessore 3 cm sono. E sono buoni, ma ce li ha, li vengo sempre, ogni tanto già un pareggio. E li puoi fare alla pizzaiola che sono ben buoni. Ma la rolata è graziata? No, no, non è rolata, la rolata già lo gioco. Noi sono secondo me è muscolo perché è rotondo, sono rotondi e sono a fette. A quello che ci mette nei panini, eppure il panino si vogliono buoni, però è spesso 3 cm di spessore, è grosso un po', dunque bisogna metterlo in una cazzarola con un filo dolce d'arriva, si buoni a Eddi, si assente, sopra gli metti il sugo o quella pezzettoni, poi capperi e cipolline anche e rosmarino, un pizzico di sale e li lasci cucinare, metti un pochettino d'acqua, poi si consuma l'acqua alla fine. E li chiamo sibucchi, ma non so sibucchi, non mi ricordo il nome. Non mi ricordo come si chiama. Se non lo sa attore, cioè, come si chiama? L'aiuto. I girelli del muscolo, Gian Maria, girelli del muscolo, che dagliano affetti di 2 cm e dagliani. È il girello del muscolo, osso non ne ha. No, non ne ha osso. Riprendi che sta squillando il telefono. Ho capito qual è, sì. Ho capito. Vabbè. Tante cose si possono fare, ragazzi. Ci sono pochi nomi di roba di magnacca, boh. Ah vai, lo sai come ci si mangia, hai visto questi balini che fa di là va? Cazzo, li vuole un po' impriati tu. Ma che ci sono cose, hamburger, che c'è hamburger in mezzo? Hamburger di carri, mazzinata, E chi c'è? Non mi piace come ti rifaseni, se vuoi troppa roba. Infatti, ma non vedo roba, gatta. Non vedo roba, troppa. Cos'è? A me non mi fanno, magari a chi piace già la mangia volentieri, va. Guarda, io li ho mangiati a McDonald's dell'Inghilterra ed erano buonissimi. La giumagna tutto, va giumagna non la posso mangiare a miro. E no che la giumagna non mi piace, come ti è fatto? Ma voce in Spagna di a cosa? A Barcellona. Stai a dormire sole a pranzo. Era tutto eva brutta e due o tre pezzi di bassa vera lì. Tidarini, due o tre tidarini. Chi se lo dormire sole e baetti? E allora. Pareva brutta a Bari, io lo così i panini fatti da McDonald's in Inghilterra, erano un bel buoni i rani, ho pigliato tre, io, mia figliola e mia moglie, erano un bel buoni, e no che l'ho pigliato e non si viene a nulla, non c'hanno gusto perché ci mettono troppa roba, ci mettono. Perché loro sono abituati, capito, a quelle cose, noi no. Capito? Anche per quello, capito, che a noi non ci piacciono certe cose. Se vedi svezzi abituati a chi sono nati in mezzo a queste cose, per cui per loro è un piatto buonissimo, capito? Ma per noi fa di schifo. Lo so. Insieme a quel panino ci hanno dato anche un contenitore di patatine. Ci hanno dato. Ah. e come sono le patatine? Sì, sì. Sì, te sono. Fatte come sempre, ma ho un beboni. Insieme al panino. Senti, che il panino ma giù meno per la vostra magna a miro. Ehi, auguri, poi che sono panone sotto, non sono panini. Che sono panone, non vuole pochi priati. Oh, io, gatto, come fai a mangiarti qualcosa del genere? Boh. E deve avere del timone pure, se no hai da ragione. No, e no, che in Inghilterra no, non è così. Così come lo fanno qua. Là lo fanno diversamente, lo fanno. Non ci mettono tutta quella roba di ingredienti. Ecco cosa è, eh. Io in Inghilterra ci ho mangiato con appena appena di verdura e appena appena di condimento ci aveva. Una fetta di pomodori ed era buonissimo là. Le hamburger che fanno qua, alle hamburger che fanno il continente, sono tutte diverse, sto. Questa nostra, quella roba, l'hamburger che fanno qua, il panino non è tanto grande, capito? Mentre invece quel panino che fanno il continente è molto grande e metto anche più cose anche. No, là no. Io le cose, il panino era un panino rotondo normale, era un paninetto di quelli soffici, però normale, non era molto grande. C'era l'hamburger e due o tre pezzi di verdura, un po' una fetta di pomodoro e appena appena di salsa c'era, boh. E quello lì, il panino, buono. Ho capito. Un attimo, tu. Sono qua. Attenzione, signor Bacchisio. E invece i messaggi saccati rubare donde impara la ministra e Fagiolo. Store, Bonarello, rubare il giusto, che su dondo. Bane grosso, eh? Su bane di cose, di... Chissà bagnotta. No, quello che fanno a sorso rotondo, il pane sardo. Oh, anche quello di oggi non mi piace. Quello non fa ingrassare, quel tipo di pane lì. Pane sardo, dimmi. No, che ci vendono i panifici, ci non si vanno detto, ci mollica. Quello là è fatto di madonna, c'ha proprio il profumo. Beh, un sciaporco. Esco, grazie. Il pane di coso, dei diabetici, mangiato l'hai. In un paese di Uvazini, buono. Già ce l'ho, c'ho anche quello qua in casa. Ce l'ho anche a fette. Ce lo compro anche quello. Ma compro anche quel pane sardo io, che è più saporito. Graziano. Sai che non ti sente Graziano? Chi è? Graziano Vicenti. Ciao Antone, basso basso ti sento, prova. Anch'io ti sento basso, poco fa ti sentivo meglio, mettiti in una zona buona. Adesso già ti ho sentito, insieme a Tore e a Gio Maria sono. Ehi, saluta per tutti e due, già li sento, passi passi ma già li sento. Tore, non lo senti Antonello? Non lo intendevo, da Gito, se lo intendevo, non lo intende nessuno. Deve lasciare in qualche luogo sotto qualche palazzo. Ed è arrivando, basso basso è arrivando. Vero Antonello, dietro un palazzo sì. Claudio, ci sei? Ti sento basso basso, guarda, il livello QFM è proprio un caparezzo. Ma che Claudio è in F, in coso, in 27. No, non c'etto, c'era la portante, è scappato. Senti tu Ettore, ti sento basso basso. Mi senti Graziano? Graziano non mi sente. Io lo sento basso basso ma lo sento. Deve essere in qualche punto dove sei tu e tu non lo senti a lui. No? Aspetta un attimino. Deve essere sotto qualche palazzo, Antonello. Antonello, spostati da quelle...